questa luna ruffiana che ne vuole ancora e batte la strada con il tuo odore, mi ci pulisco il cuore per un po', se vuoi ci puoi giocare ancora. E questo sole di aprile che scioglie il rancore, che sembra che chiunque sappia dove stare, mi ci pulisco il cuore. Ti dirò, ho ancora tutto da imparare. Finché tiene il cuore, ci vediamo in giro con le tue paure, con le mie, con le tue paure. Che non la puoi pesare e non puoi mica dirle dove deve andare, mi ci pulisco il cuore. Che se vuoi ti ci potrai specchiare. E se il pensiero che conta, grazie per davvero. Ci sei messa tutta dentro quel pensiero, mi ci pulisco il cuore. Per un po' ci puoi comunque rimanere. Finché tiene il cuore, ci vediamo in giro con le tue paure, con le mie, con le tue paure. Che sai baciare e il letto disfatto e il resto ad aspettare, mi ci pulisco il cuore. Finché avrò ancora un cuore da pulire, finché tiene il cuore, ci vediamo in giro